La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24. Eccoci qua e grazie per l'ascolto, come sempre in diretta in podcast in questo giovedì 18 di maggio. Ricordo l'indirizzo a tutta la versione di Oscar @radio24.it. E la puntata di oggi nasce dalla curiosità di alcuni ascoltatori che dicevano: ma perché, visto che la presidenza Trump sembra già arrivare a un punto fondamentale di crisi istituzionale, dopo, tra i tanti incidenti, ma insomma quelli più recenti sono di due ordini di grandezza, quello significativamente più serio per le possibili implicazioni e il firing, la defenestrazione del capo dell'FBI, che i democratici volevano morti in campagna elettorale quando riaprì a poche due settimane dal voto l'indagine sulla Hillary Clinton, e che alla fine è stato il presidente repubblicano che l'aveva lodato per quello a mandare a casa, e il rischio istituzionale è che escono particolari su l'eventuale richiesta, quello che i giornali italiani oggi chiamano il pizzino, a Comey, prima di defenestrarlo, di chiudere l'indagine sul Russiagate, cioè sui vincoli, i contatti tra il circolo ristretto dei collaboratori, degli ispiratori di Trump e i russi da una parte. Dall'altra, il secondo episodio è più una fregnaccia mediatica, a dirvi la verità, cioè quella delle rivelazioni al ministro Lavrov russo di particolare di intelligence, ma il primo ha grande rilievo istituzionale. Di fronte a tutto questo alcuni hanno detto: ma perché non fare una puntata per capire un po' meglio l'America e Trump? E allora ne approfitto, cari ascoltatori, per inquadrare questo in una prospettiva più ampia, perché c'è un libro che io consiglio a tutti di leggere. È un libro che insieme al suo autore, per il quale io ho una venerazione, questo è il termine giusto, da molti anni, e che conosco personalmente, è un libro che in coerenza all'evoluzione del pensiero del suo autore in questi ultimi anni mi provoca enormi crisi intellettuali. Per questo ho deciso che il giorno era giusto per assecondare la vostra richiesta di una riflessione più approfondita sul fenomeno Trump, non tanto per capire o per farvi cambiare idea qualunque cosa voi pensiate del presidente Buzzurro, o alcuni lo chiamano Goofy Trump, il presidente Pippo, per così dire, cioè questo singolare misto di estraneità totale alle classi dirigenti e alle elite, al modo in cui concepiscono il ruolo presidenziale, il ruolo istituzionale, un misto di sprovedutezza, improntitudine, eccessi comunicativi con Twitter, disastri istituzionali rispetto a ciò che siamo abituati a considerare invece codice di comunicazione, dietro al quale poi sappiamo che ci sono disastri e compromessi come c'erano dai tempi della famiglia Kennedy ai Clinton e così via. Ma detto tutto questo, al di là di tutto questo, e comunque la pensiate, questo libro rappresenta per me un problema serio. Perché? Perché a scriverlo è una persona di cui non ho nessun dubbio nel considerarla liberale, è un liberale cattolico per sua definizione, è una persona straordinaria per il suo curriculum, è un curriculum di ex tutto, ex operaio, ex grandissimo dirigente del comitato strategico Fiat, ex manager internazionalizzato alla guida di una grande, la società numero 2 delle macchine in movimento terra al mondo, ex venture capitalist, ex inventore di nuovi business per la sua famiglia nella moda e così via. Però vi dico subito qual è il punto che mi mette in crisi e che al contempo vi offre uno strumento per capire meglio cosa diavolo sta avvenendo in America e nelle elite dell'Occidente, quindi unendo in un punto, in una serie di punti, una linea continua che vanno dalle elezioni di Trump in America alla Brexit a quello che sta succedendo in Europa contro le elite, e che porta anche, sia pure in chiave francese, alla vittoria di Macron contro però i due avversari più forti, erano due anti-elite da una parte e dall'altra, come Mélenchon a sinistra e come la Le Pen da destra. Ecco, unendo tutti questi punti, questo libro fa una riflessione generale che mi mette in crisi. Perché? Perché? Perché io sono un liberale di scuola austriaca, quindi credo nel mercato, ma credo che il mercato sia sempre una scoperta di cose nuove, non credo nella razionalità assoluta del mercato. Il mercato non è razionalità, per così dire. Il mercato è una scoperta di processi, quanto più i processi sono liberi, tanto più l'esito finale può essere un avanzamento insieme a tanti arretramenti, e il problema è capire i secondi, sanarli e pensare invece agli avanzamenti in un continuo processo di scoperta dal basso che riguarda centinaia di milioni di persone, tutti noi, quanto più siamo liberi di concorrervi. Secondo, sono un liberale di scuola austriaca perché credo che la tradizione esista e abbia un peso. Noi non siamo costruttivisti, non crediamo negli ordinamenti che dall'alto fanno calare la verità e la buona amministrazione, quindi la tradizione al di là delle leggi e degli ordinamenti positivi ha un grande valore, e nei paesi in cui ha un grande valore, quelli anglosassoni, si vede che il livello di civiltà è superiore al nostro, che per tutto pensiamo che sia una legge a risolvere. Ecco, dico queste due sole cose per farvi capire perché alcuni dei passaggi di questo libro, io ve ne voglio leggere due o tre e poi vi presento l'autore e lascio parlare lui, mi mettono profondamente in crisi, perché su una base comune come quella che abbiamo condiviso per tanti anni è arrivato in questi anni alle conclusioni che sono in questo libro, che è un libro importante perché sono 265 rotte pagine, il cui titolo è America, un romanzo gotico, cartoline da un impero in crisi, Marsilio Editore, e mette insieme una lettura ipercritica che da anni sta affinando sui meccanismi dell'elite occidentale e del modello americano per primo, quelli che lui chiama il CEO capitalismo, cioè il capitalismo dei super manager di imprese di tutti i settori, ma insomma i cui leader sono quelli della finanza e delle grandi imprese digitali, e ne dà una raffigurazione da fine dell'Occidente, da crisi di un modello culturale. La loro descrizione è quella di Spengler, di Gibbon, cioè dei più grandi autori della storia moderna, chi si affinava sulla crisi dell'Occidente, chi si produceva libri sulla crisi dell'impero romano, ma insomma lo schifo che provoca nell'autore questa classe dirigente è mostruoso. E questo mi mette in crisi, perché io invece vedo nell'economia digitale una forma di enorme accorpamento verticale di organizzazioni aziendali e di bypass di tutte le vecchie forme organizzative, che non deifico, ma che mette in crisi molte cose dell'epoca fordista e che ci fa fare un passo avanti. Non la deifico, ma non la considero la crisi della civiltà. Lui invece sì. Da anni sostiene che anche in Italia stiamo sperimentando lo stesso effetto sociale. Lo stesso effetto sociale di questo monopolio, di questa classe dirigente, si riduce a una sintesi, e questa sintesi è uccidere la classe media, sedare i poveri, sedare con i bonus, sedarli con impressioni di cose varie, sedarli con la religione del cibo, eccetera eccetera. E anche qui la brutalità di questa analisi mi lascia profondamente in crisi, perché in realtà se paragoniamo a parità di poteri d'acquisto il livello qualità della vita che c'è oggi anche in chi piange e lamenta di avere poco rispetto a quello degli Italiani in cui sono cresciuto io negli anni 60, è incomparabile, nel senso che è incomparabile il miglioramento. E pur tuttavia io capisco anche questo giudizio critico. Nel libro ci sono pagine meravigliose in cui si analizza l'America su tre focus, su tre grandi conurbazioni, che sono tre aspetti dell'America: New York da una parte, San Francisco e la West Coast dall'altra, e poi l'America vera come simbolo, Wichita nel Kansas. Ok, però io mi interrogo se le semplificazioni per cui addirittura si leggono frasi su il modello San Francisco come un nuovo fascismo, addirittura, ecco, il fascismo dei valori al di là del politicamente corretto, che produce la gig economy. Che cos'è la gig economy? L'economia dei lavoretti, no? Ecco, oppure al di là dell'analisi, che condivido molto di più invece, sui limiti delle classi finanziarie che hanno portato al 2008 eccetera eccetera, sono pur sempre uno di quelli che nel 2007 iniziò a scrivere sul giornaletto che dirigeva che c'era una crisi mondiale in arrivo, che tutto sarebbe saltato e mi chiusero il giornale. Ma detto tutto questo, però, nella conclusione, e ho finito, nella conclusione, che è insieme ad Angelo Codevilla, un grandissimo politologo italiano, ma insomma che sta in America, e che nella campagna elettorale si schiera per Trump dicendo: questa è una rottura epocale, potranno fare a pezzi Trump per la sua improntitudine, ma non potranno annullare l'operaio dell'Ohio che non vuole scomparire, e che insieme a tante altre figure di questo tipo ha dato vita a questa nuova coalizione anti-establishment che porta Trump al successo. Però poi uno vede Trump in concreto e io non so quanto questo giudizio possa valere. Insomma, è un grande libro, ma è un libro sulla decadenza, durissimo, violentissimo, Tanto che quando alla fine, e faccio quest'ultimo esempio, anzi all'inizio, rispetto ai grandi giganti digitali che eludono le tasse, monopolizzano, quotano in borsa e capitalizzano centinaia di miliardi di dollari al di là dei loro risultati reali, l'autore dice: io preferirei piattaforme digitali di Stato. Beh, a me viene un ictus, perché l'idea che facciamo la piattaforma statalista, il Facebook, dei governi europei o del governo italiano, Dio scampi e liberi. Però io ammetto che ho verso l'autore l'attitudine del discepolo, quindi non penso che le mie convinzioni valgano più delle sue per quello che ha fatto nella vita. E adesso me lo presento, si chiama Riccardo Ruggeri, torinese, una vita in ascesa. E se leggete questo libro troverete nelle parti che descrivono le città, i loro musei, la cultura, sempre con questo criterio sociologico-economico ancorato alle cose reali, che ve lo, se non lo conoscete, faranno apprezzare come un accanito interprete di quelli che lui chiama i segnali deboli rispetto ai metadati e ai big data, di cui invece sono pieni i giornali digitali dei nuovi guru. Ecco, Riccardo Ruggeri, grazie di essere con noi di questo libro. Grazie a te per le parole che hai detto. Mica poi tanto. Vedrai che non siamo poi così lontani, allora, come tu pensi. Ma quando dici che il modello delle grandi imprese digitali, della West Coast, eccetera, eccetera, è fascismo dei valori? No, scusa, questo è vero, è un passaggio in cui faccio, è un po' più, un po' diverso, ma comunque non è questo. Il tema vero è che io non ce l'ho con le piattaforme. Non ce l'ho con i prodotti, io ce l'ho con i personaggi, perché sono loro quel che sono, che io considero i nemici, perché sono questi 5, 6, che poi dopo sono 200 con tutte le altre piccole cose, i quali hanno, secondo me, il disegno del monopolio. E questo io come liberale non lo posso accettare. E su questo ci sto. E questo è il punto fondamentale riferito alle persone. La cosa peggiore è che queste persone nascono in fondo, sono figlie dei figli dei fiori, e alla fine, e a metà vita, perché sono tutti giovanissimi, sono figli di puttana. Cioè, è questo il punto profondo, la cosa che mi ha sconvolto, così come ha sconvolto te certi passaggi. Per me è il discorso di Tim Cook, il quale si rifiuta di addivenire a un contributo che lui deve dare perché è il supremo interesse degli Stati Uniti di fronte a una richiesta dell'FBI e a una richiesta della Corte Suprema della California, in cui lui deve aprire l'iPad. E lui, in nome di questo Dio, che ed è il punto dove non mi trovo d'accordo, in questo Dio che è il cittadino consumatore, non il cittadino consumatore, lui si rifiuta e non lo mettono in galera. Però vedi, anche qua, spiegami meglio, per me l'evoluzione da cittadino a consumatore sì, come parte attiva, insieme a miliardi di altri, di ciò senza di cui non esiste l'ottimizzazione, sia pure per approssimazione ai contanti, guai, dell'allocazione di risorse, per me era un passo avanti. Tu dici invece no. La riduzione del cittadino a il cittadino vota una volta ogni anno e poi non può fare un cazzo, in parole povere. Il consumatore vota tutti i giorni, sia con i piedi che con le mani e che col portafoglio. Certo. Allora, tu invece dici no, questa riduzione al consumatore, cioè come un inconsapevole raggirato perennemente mulino nell'interesse dei nuovi grandi gruppi verticali che dispregiano la centralità del lavoro, è un passo indietro rispetto al mondo in cui la dignità del lavoro era la vera pietra. Certo, ma io mi spiego anche su questo. Allora, prendiamo il caso delle aziende automobilistiche, solo perché sto scrivendo un pezzo su Marchionne e su FCA. Allora, le industrie automobilistiche un tempo avevano il fatto di puntare sui prodotti, puntare sullo sviluppo, eccetera, eccetera, eccetera. E poi si combattevano e chi vinceva prendeva l'altro. Il disegno invece che c'è oggi, che si chiama consolidamento, è il passaggio. Cosa vuol dire consolidamento? Vuol dire prendere due aziende, metterle insieme, raccogliere tutte le efficienze e quindi tagliare i costi di vario tipo, per poi a avere dei costi più bassi. Allora, questa qui è una cosa elementare che la fanno diventare strategica. Cioè, io, questo è un aspetto... Sì, però la fanno diventare strategica, questa è la domanda con cui ci lasciamo... No, ma il finale però, scusa, il finale è Burning Airbus, e questo è il finale, perché a volte che fai consolidamenti, allora, lui diceva, Marchionne dice, io voglio consolidare con General Motors. Sì. E va bene, il giorno che hai fatto General Motors questo, arriverà al punto in cui dici, mettiamoci anche Ford, e alla fine di tutto arrivi al monopolio, e questo è il punto. Questo è inaccettabile. È inaccettabile, però è il passo di fronte nel post 2001, insomma, l'ingresso della Cina nel WTO, il mercato mondiale di proporzioni che non era mai esistito nella storia dell'umanità, davvero. È chiaro che i giganti continentali dell'auto si iniziano a porre il problema. I tedeschi lo interpretano meglio di tutti e hanno il maggior numero di stabilimenti lì e iniziano a investire lì. Adesso il problema è che io non credo che questa sia una fase eterna. Poi si romperà questa roba, però il mercato mondiale è anche questa roba qui. Però capisco il tuo ragionamento, sono tendenzialmente una versione nuova su scala planetaria dei monopolisti dei Robert Barons, insomma dell'epoca ruggente del capitalismo americano, delle ferrovie, della Standard Oil, eccetera eccetera, però proiettati su scala mondiale. Torniamo tra un minuto. Traffico. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. vi presenta la versione di Oscar. Stiamo parlando, sì, anche Trump adesso e dei suoi problemi, ma nel quadro di un libro che io vi consiglio molto, America, un romanzo gotico, cartolina da un impero in crisi, Marsilio Editore, Riccardo Ruggeri che è con noi, il suo autore. La prefazione è di Carlo Cottarelli. Siamo partiti da questo giudizio, un giudizio radicale, molto pessimista, molto articolato contro l'establishment mondiale del mondo della finanza digitale, a cui poi è collegata anche una certa idea della politica che porta l'autore a dire: ero felice nell'ultima campagna americana del fatto che ci fosse una scelta così chiara tra l'America, tra virgolette, buzzurra, per capirci in una sola parola, cioè quella che alla fine voterà per Trump, e il vecchio establishment compromesso con quei due mondi, digitale e finanziario, fino agli occhi, che era il vero elemento di continuità con la famiglia Bush da una parte, ma la famiglia Clinton, di cui Hillary era la rappresentante in campagna elettorale. Però mi pare di capire che tu a un certo punto hai sfiorato l'idea di votare per Bernie Sanders. No, io dico, ci sono due Americhe. Infatti domani esce la recensione del libro da parte del professor Codevilla, il quale scrive: oggi l'America è in uno stato di guerra civile fredda tra la classe dominante, i suoi adepti e il popolo, come ben ha colto Riccardo D'Ausserre, che ha vissuto anche nell'America pre-Clinton apprezzandola molto. Cioè, questo è il punto. Noi siamo ma anche in Italia siamo nella guerra civile, in Europa siamo nella guerra civile. E allora la guerra civile che cosa ci porta? Ci porta al consolidamento. Per cui anche questo concetto destra e sinistra non esistono più, vuol dire partito della nazione, ma se fai partito della nazione che io automaticamente nasce... considero orrendo, a dire la verità. Certo, però questo è il discorso è che io sostengo che io ho avuto questa fortuna straordinaria, fino a 40 anni sono appartenuto alla classe operaia, dai 40 agli 80 sono appartenuto all'establishment. Io ti dico la verità, che mi trovo bene in tutte e due e non vedo incompatibilità. Ma non con questo establishment. Assolutamente non con questo. Infatti il giudizio, a parte che il mio libro finisce, è stato licenziato all'editore il giorno che Trump anche entrava al potere, entrava alla Casa Bianca. Però io dico, l'altro giorno sono stato intervistato alla televisione, a Mediaset, e mi hanno chiesto di Trump e io ho detto: io di Trump non mi fido. Però Trump ha avuto questo. Seconda cosa, Trump non è il 5 Stelle e non è neppure Marine Le Pen. Certo. Lui rappresenta l'apparato militare industriale degli Stati Uniti, che hanno governato sempre. Se pensi nel 2000, 10 anni fa, quando è scoppiata la crisi, le prime cinque aziende, salvo Microsoft, erano quattro aziende dell'apparato industriale, e oggi invece c'è Facebook, ci queste qua. Ecco, e questo è il punto. Il punto è che siamo nella guerra civile e l'hanno voluto la classe dirigente, la classe dominante. Allora, non va bene. No, non va bene, sono d'accordo, però tu finisci il libro con una nota di ottimismo che ti dirò, però io alla luce di tutte le tue analisi così spietate poi fatico a vedere, perché la guerra civile, se produce un risultato insoddisfacente con Trump, parliamo di questo, le due l'una: o c'è un ritorno indietro a chi ha vinto. Ha vinto su una cosa, tu dici in una pagina, in una frase del libro, una cosa che per chi è minoritario come me è esaltante. Dici: noi eravamo quelli che pensavano che non dovesse esistere il too big to fail, cioè imprese troppo grandi per essere salvate con il denaro pubblico, e too big to jail, cioè gente che non va in galera dopo aver fatto disastri. Invece hanno vinto loro, questa è la verità vera, hanno vinto loro. E allora delle due l'una: se finiscono poi i grandi personaggi che... il cui successo, Trump per esempio, deriva da questo grande moto di rivolta del popolo vero rispetto alle elite too big to fail, too big to jail, certo. Chi ci garantisce che non si torna dietro come prima? No, io sono convinto che non, dopo 30 anni, perché in realtà noi è 30 anni che siamo dominati da quelli che io chiamo i New Borboni, e cioè Bill Clinton, George Bush e Obama. In fondo erano la stessa cosa, in questo senso erano già il partito della nazione. Sì, anche se a molti dirlo gli viene la pelle d'oca. Noi pensiamo che sia abbastanza vero che fossero la stessa cosa, sì. Assolutamente, infatti c'è il libro appunto di Codevilla, The Ruling Class, che lo dice 10 anni fa. Quindi io non ho inventato niente sotto questo punto di vista. Però allora, dici, non c'è il rischio di tornare indietro? No, il problema è che noi viviamo in un'epoca di mezzo, cioè quando per 30 anni è stato al potere un certo modo di vedere il mondo, non puoi pensare che arriva uno e questo qui risolve i problemi. Certo. No, dovremo soffrire anni per trovare via via dei compromessi, quindi personaggi come Trump, poi dopo Trump verrà qualcuno che non sarà Trump, ma non sarà neanche Obama. Cioè, chiaro, perché è una crisi che cui esito si scopre costruendolo con processi dal basso. Questa è anche la mia convinzione. Vabbè, forse così mi hai un po' convinto. Devo dire che posso semplicemente dirvi: leggetelo questo libro, ne vale la pena. Comunque la pensiate, siete socialisti, comunisti, antimercatisti, troverete molte cose che fanno capire che i liberali non sono quelli che pensate voi, non sono capaci di spirito critico, sono in lotta contro questo establishment, almeno noi liberali minoritari. Io non fatico molto a seguire Riccardo Ruggeri, ma lo considero un mio maestro, non voglio mettere in imbarazzo. Titolo: America, un romanzo gotico, cartolone da un impero in crisi, autore Riccardo Ruggeri, Marsilio Editori. Buona lettura a tutta, continuate con Radio 24, appuntamento con me Alessandro Mina domani mattina alle 8:20, attenti a noi due.